Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Dunque, non c'è solo Michalizzi, il mitico Michalizzi, perché alcuni lo vogliono ministro dell'economia per aver truffato grandi banche d'affari come Nomura, ma non solo. Perché dicono non ci sono Michalizzi? Perché oggi la cronaca della giornata economico-finanziaria, beh, è una cronaca anche della giornata economico-finanziaria giudiziaria. Da un lato l'amministratore delegato di UnipolSai, Carlo Cimbri, è indagato, come i nostri GR24 vi hanno già ricordato più volte, per aggiotaggio dalla Procura di Milano nell'inchiesta che riguarda presunti illeciti nell'operazione che ha dato via libera alla fusione tra Fondiaria Sai e Unipol. Infatti l'oggetto è appunto la Unipol Sai. L'atto di fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin in Fondiaria Sai è stato stipulato a fine del 2013, ma acquistato efficacia dal 6 gennaio del 2014. Io ricordo anche che Fonsai ha cambiato nome in Unipol Sai, e questo è un fronte. Poi c'è il fronte della Cassa dei Risparmi di Genova, di cui già raccontammo l'allegra gestione, disastrosa gestione, in quello con un parallelo anche con la Cassa Marche. Però questa mattina la vicenda ha avuto uno sviluppo ulteriore, nel senso che la Guardia di Finanza ha arrestato, quindi ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei soggetti coinvolti in una presunta truffa alla banca, alla Cassa del Risparmio di Genova, perquisizione a Genova, Milano e La Spezia e sequestro di beni per 22 milioni di euro. Già la cifra, per carità, uno può essere ricco di famiglia, può aver avuto eredità importanti, ma già la cifra di 22 milioni di euro dovrebbe far capire che forse qualcosa o li collezionava tutti la Cassa del Risparmio di Genova, i grandi ereditieri di questo paese, o qualcosa non funzionava. I reati contestati, beh, insomma, roba leggera leggera: associazione a delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, una cosa proprio così passeggera. Tra gli arrestati anche agli arresti domiciliari l'ex presidente della Cassa dei Risparmi di Genova, Giovanni Berneschi, attualmente vicepresidente dell'Associazione delle Banche Italiane, e questo alcuni ha fatto ricordare la vicenda di Mussari, che fu per anni presidente dell'ABI. È una nuova vicenda sfortunata per l'ABI, era appunto vicepresidente Berneschi ancora dell'Associazione delle Banche Italiane. Le indagini hanno preso il via dalla relazione della Banca d'Italia depositata in procura a settembre 2013. Interessante la reazione del titolo, perché il titolo va bene, nel senso che è arrivato a guadagnare anche il 3%, chi va male invece Unipol perde il 7,33%, devo dire che oggi sono deboli anche Cucinelli, meno 6,11, Pagine Gialle meno 5,90, Creto Valtellinese meno 4,5, tra i migliori, così parliamo anche di borsa, Ser Therapeutics più 9,50, Zignago più 5,50, mentre in assoluto segnalo Mediaset più 2,90%, l'ipotesi di una cessione del digitale, Buzzi Unicem più 1,30, Pirelli più 0,70, pesante Finmeccanica meno 4 come Unipol Sai appunto, Popolare Emilia Romagna meno 3,20 come Mediobanca e Saipem, il Banco Popolare perde il 2,20 come Iux, Ubibanca e Tods, ma anche il Monte dei Paschi cede il 2,20 come Unicredit. Il 2% lo perde Exor, la finanziaria di controllo del gruppo Fiat, della famiglia Agnelli, ed Enel meno 2% come A2A ed Enel Green Power, Azimut meno 1,90%. E quindi parleremo della vicenda che riguarda Unipol Sai, ma parleremo anche della vicenda che riguarda la Cassa di Risparmio di Genova. Poco fa l'ex presidente, appunto, l'ex vicepresidente dell'ABI Berneschi, nonché presidente della banca, è uscito dal suo ufficio in via Cassa di Risparmio, nella macchina però della Guardia di Finanza. Insomma, la via si chiama Cassa di Risparmio, lui è dentro la macchina della Guardia di Finanza. E va ai domiciliari, e domiciliari anche l'ex amministratore di Carige Vita, Vita Nuova, Fernando Menconi. Ancora gli arrestati sono appunto Giovanni Berneschi ai domiciliari, Fernando Giovanni Menconi, ex amministratore delegato ai domiciliari, Ernesto Cavallini, imprenditore immobiliare ai domiciliari, tutti questi hanno tra i 77 e i 70 anni. Davide Enderlin, svizzero, avvocato, è in carcere a 42 anni. Sandro Maria Calloni, imprenditore, è in carcere a 65 anni. Andrea Vallebuona, commercialista di Genova, a 51 anni, è in carcere. Francesca Misano, che è la nuora di Berneschi, ed è in carcere. Ancora l'accusa è molto pesante: portati in Svizzera 21 milioni di euro servirono per operazione immobiliare dei vertici della banca, e anche di questo, ripeto, parleremo. Per quello che riguarda poi Fiat, ci sono varie dichiarazioni oggi di John Elkann, di Unipolsai tratteremo. Infine anche il tema della nuova contabilità nazionale. C'è un nuovo sistema con cui l'Istat calcolerà il PIL, e so che la cosa potrà far sorridere, in alcuni casi anche far arrabbiare. È una direttiva europea, cioè le indicazioni sono quelle di Eurostat. Dentro il calcolo del PIL anche le attività illegali come traffico di sostanze stupefacenti, servizi della prostituzione e contrabbando di sigarette o alcol. So già la battuta, in questo modo l'Italia potrebbe avere una crescita in attesa del PIL, certo, sul fronte dell'illegalità, e non so della prostituzione, ma dell'illegalità sicuramente. Tant'è che con un comunicato, forse di cui non si rendono conto dell'impatto un po' ironico, l'Istat dice: col nuovo sistema dei conti nazionali vi saranno effetti positivi sul PIL, le spese per ricerca e sviluppo, in realtà questa è una cosa seria, diventano investimenti, non più costi, aggiungiamo noi, anche droga e prostituzione daranno la loro mano. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Iniziate le votazioni, intanto i seggi sono aperti in Olanda e in Gran Bretagna, perché i paesi, l'Europa, diciamo, è poco unita anche nella data del voto. Noi siamo gli ultimi a votare, si vota per 4 giorni a seconda dei vari paesi. Il ministro dell'economia Padoan dice: se il voto della protesta sarà forte aumenterà l'incertezza e la situazione diventerebbe difficile in Europa. Però insomma non è che tutti siano così convinti che forse la gestione dell'Europa in questi 4 anni è all'origine del voto di protesta. Lo dico perché il presidente dell'Istituto Economico Tedesco IFO, Hans-Werner Sinn, ha dato ragione al suo ministro delle finanze, il falco Wolfgang Schäuble, che ha detto di voler bloccare gli acquisti di obbligazioni da parte della Banca Centrale Europea attraverso il sistema OMT, che è un sistema che dovrebbe permettere di creare quella cintura di salvataggio verso i paesi sotto attacco nel caso di un nuovo attacco al debito di alcuni paesi dell'area euro. No, dico, interessante che, l'abbiamo detto già ieri, non è che la caratteristica migliore dei tedeschi sia la flessibilità e la capacità di cambiare idea, però qua stiamo raggiungendo veramente l'assurdo. L'Europa rischia, per alcuni, comunque sicuramente per i leader politici, di conoscere un'ondata di voto di protesta, e Schäuble, che vive in un altro mondo, perché la Germania è spesso un altro mondo rispetto a questa Europa, ha come unica preoccupazione dire: bloccherò la partecipazione tedesca al programma di salvataggio nel caso uno Stato dovesse essere posto sotto attacco speculativo. E voglio dire, poi è difficile bloccare le proteste, chi vede nell'Europa solo l'Europa dei più forti e non una casa comune, con queste dichiarazioni. Per quello che riguarda l'Italia, lo spread è a 185 punti, quindi più alto dei 150 ma sotto i 200, il rendimento del BTP è al 3,21%. Renzi oggi ha detto: non credo ai burattinai dello spread, e poi ha aggiunto: se bloccano le riforme, se non mi fanno fare riforme, lascio, vuol dire che è ferito il mio progetto e me ne andrò a casa. È naturale che quando c'è una prospettiva di sviluppo una prospettiva in cui la gente vede fare le riforme. Quando abbiamo portato a casa molti investimenti è stato naturale che il mercato arrivasse ad andare sotto i 150. Adesso è tornato a 184 perché quelli che lei chiama burattinai e che per me sono semplicemente degli operatori, degli analisti, leggono i giornali. Se io leggo i giornali dell'ultima settimana, trovo naturale il trionfo dei populismi in Europa e in Italia. Non credo alla cultura dell'alibi. Io non sono uno di quelli che cerca alibi. Se falliamo, la colpa è mia. Il rischio è che qualcuno, non tanto nel mio partito, ma nel Parlamento, provi a bloccare le riforme. Però questo è il punto sul quale io mi sono giocato tutto e lo farò con grande determinazione senza mollare. Io penso che l'Italia abbia un futuro straordinario. Penso che l'Italia possa diventare la guida dell'Europa. Scommetto tutto e già i primi segnali si vedono. Ieri abbiamo firmato un ulteriore accordo, più di 1 miliardo di investimenti, sulla possibilità per l'Italia di tornare a guidare l'economia. Però perché questo accada occorre fare delle riforme. E se non me le fanno fare, se non mi fanno fare le riforme, allora sì che è fallito il mio progetto e che vado a casa. Sì, ma mi viso un po' anche in qualche modo contraddittoria questa risposta di Renzi, perché voglio dire, o lo spread non lo guardiamo su questi movimenti, oppure non si può dire era sceso 150 grazie alle riforme, adesso risale grazie al pericolo d'Europa. Allora, la nostra idea, l'abbiamo detta anche ieri, in questo momento lo spread subisce, a parte che 185 è un livello su cui metterai la firma per i prossimi anni, ma subisce la delusione, diciamo così, per un'Italia che non cresce, il dato sul PIL. Se poi vogliamo ogni volta che c'è una dichiarazione di un politico per motivi politici tirarla da una parte o dall'altra, è un gioco che su cui noi non ci stiamo e non seguiamo nessuno, nel senso che lo spread oscillava da 230 a 200 anche senza motivi, cioè il contesto generale che conta. Ora, vedere che l'Italia non cresce è sicuramente un po' spaventato alcuni investitori, ha detto beh, insomma, terrà il piano Renzi, avranno le coperture, dovranno mettere a mano una manovra correttiva, vi saranno maggiori tasse, i consumi ripartiranno, verranno ulteriormente abbattuti. Questo, mi avviso, è il ragionamento che si fa in questo momento sull'Italia, non tanto se vince Grillo alla fine, ma dai. Adesso immagino un insieme di messaggi che diranno che sto difendendo Grillo. Va bene, andiamo avanti invece con l'Electrolux, dove l'80% dei lavoratori ha approvato l'accordo raggiunto. Su 4.700 dipendenti interessati hanno votato in 4.100 e ripeto, 3.300 hanno votato in 3.300 e hanno espresso 2.600 sì. Per quello che riguarda la successione a Befera, all'amato, amatissimo Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, nessuna decisione presa, tutto rinviato, nel senso che i nomi che circolano sono sempre quelli, tra cui PM Francesco Greco, ma nulla di fatto. Invece, importanti novità per quello che riguarda l'ENIT e anche il credito di imposta per gli alberghi e gli incentivi per i mecenati. Prima di arrivare a questo, però, vorrei dare ancora due notizie. Una riguarda in positivo la Fincantieri, che ha ricevuto una maxi commessa da 2 miliardi e 100 milioni per costruire, immaginate un po', navi da crociera da MSC Crociere, per due navi più una in opzione. Il nuovo prototipo si chiama Seaside, sarà la più grande nave da crociera mai costruita da Fincantieri e la consegna all'armatore, che a Ponte avverrà nel novembre del 2017. E tra l'altro continuo a segnalare che il turismo da crociera è uno dei pochi aspetti, uno dei pochi elementi del turismo internazionale, anche italiano, che continua ad andare bene. Invece, per quello che riguarda la confessione di Schiavone, mi chiedete, no, ma vedremo cosa emergerà, dice l'ex capo dei Casalesi, che parlerà anche dei rapporti con imprenditori e politici. No, vorrei chiudere, prima di arrivare all'ENIT, sulla mitica vicenda dei tassisti milanesi, ma riguardava tutti i tassisti italiani della Uber. Allora, abbiamo sempre detto, se la Uber era fuori dalla legalità deve essere ricondotta alla legalità. Dopodiché, continuiamo a dire ai tassisti, attenzione, forse nel boom di quel fenomeno c'era anche qualcosa che dovrebbero guardare con attenzione. Non si può solo dire è concorrenza sleale. Forse una riflessione sul servizio, sul tipo di servizio, sulla comodità, sulle facilities messe a disposizione, che tanto per dire si prenotava con la carta di con il telefonino, si pagava con la carta di credito, ti localizza. Forse una riflessione va fatta, oppure dobbiamo dire che vanno sempre bene comunque i taxi. È giusto che Uber venga ricondotta nella legalità. Faccio notare che molti ascoltatori hanno segnalato la grossissima differenza che c'è nella qualità del taxi tra un taxi e l'altro, in termini di pulizia, alcuni pulitissimi, altri inaccettabili, di dimensioni, anche di come si presenta ogni tanto il tassista. Faccio notare i messaggi che abbiamo ricevuto, oppure diciamo che la categoria dei tassisti è perfetta, non deve mai fare autocritica su niente, e ogni volta che c'è un tentativo di liberalizzare, non è questo il caso, è giusto fare le barricate. Comunque la cosa interessante è il doppio punto di vista, quello del ministro Lupi prima e quello del premier Renzi. Allora Lupi questa mattina, il ministro dei trasporti, da Simone Spezia effetto giorno, ha detto: noi non siamo contrari a Uber, ma dobbiamo tutelare il consumatore e il rispetto della legalità. Devo dire che su questo c'è poco da obiettare. Comunque sentiamo Lupi. Non c'era nessuna intenzione di fare il processo alle nuove tecnologie, anzi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti crede che l'utilizzo delle tecnologie possano essere un grande facilitatore nei piani della mobilità e del trasporto pubblico locale, però noi dobbiamo intervenire a garantire una semplice cosa: chi garantisce che se una mamma o una figlia usano App Pop come applicazione, colui che lo va a prendere a fronte di un prezzo anche più basso abbia l'assicurazione della sua macchina, sia abilitato a guidare quella macchina, non guidi in stato di ebbrezza? Cioè, chi garantisce e dà la garanzia che quel servizio sia effettivamente un servizio pubblico efficiente? È evidente che le nuove tecnologie possono vedere una rivoluzione complessiva nell'erogazione dei servizi pubblici di trasporto locale, e quindi io credo che si debba ragionare e riflettere esattamente su come cambiare le regole. Ma le faccio un esempio: nessuno di noi è mai intervenuto, come è giusto che sia, quando le nuove tecnologie hanno sviluppato il car sharing o il carpooling, no? È diventata nelle grandi città un'alternativa eccezionale e fantastica, grazie alle applicazioni che esistono, di mobilità interna di una città. È evidente che questo ha aperto il mercato, ha dato più possibilità ai cittadini, ma si svolge nell'assoluta correttezza, è un tipo di servizio diverso, e più servizi ci sono per la mobilità, per lo spostamento dei cittadini e per l'efficienza dei cittadini, ben vengano. L'importante è che però il Presidente del Consiglio, il Ministro dei Trasporti, in questa situazione hanno un unico obiettivo, che è la tutela del consumatore, non può che essere quindi così. Non avete, come scrive qualcuno, naturalmente a suo giudizio, non avete calato le braghe? No, abbiamo alzato ancora di più l'attenzione, e poi mi sembra che abbiamo anche dimostrato con durezza che non si può accettare l'interruzione di servizio pubblico, del servizio pubblico, o manifestazioni di violenza. Vabbè, non si potrà accettare, caro ministro Lupi, ma intanto quello che è successo a Milano per 3 giorni, interruzione di servizio pubblico non attraverso il metodo dello sciopero, lo dico ai tassisti, so che molti sono in ascolto, le agitazioni sono una cosa diversa, lo sciopero si proclama, si dice il giorno 26 ci sarà sciopero, bene, uno si attrezza, l'agitazione è una cosa molto più sgradevole, perché tu non sai se ci sono i taxi, ne funzionava uno su 5, ti lasciano in attesa se hai bisogno del taxi, quindi crea molta più confusione. Almeno lo sciopero, visto che è anche regolamentato, ti avvisa per tempo e quel giorno cercherai di organizzarti, non scopri all'improvviso, arrivando in centrale o a Malpensa, a Linate, che i taxi non vanno. E questa è la prima cosa inaccettabile, lo dico ai tassisti che tanto incontro spesso, quindi mi romperanno poi le scatole in macchina, ma non ne frega nulla. Tra l'altro, negli anni scorsi io e il collega Cruciani siamo stati anche oggetto di volantinaggio quando c'era la legge Bersani. Detto ciò, il secondo aspetto è che la violenza c'è stata, lo dico sempre al ministro, casi di violenza, di inseguimenti, ci sono stati. Chiusa la vicenda, direte voi, mica tanto, perché sentite, il pezzo è brevissimo, cosa ha detto questa mattina il premier Matteo Renzi proprio sulla vicenda Uber e tassisti. Io ho utilizzato Uber a New York con un amico, l'ho trovato un servizio straordinario e dalla settimana prossima affronteremo anche questa. Vedremo cosa. Dunque, l'8585 Milano alla app, le carte di credito Sì, lo sappiamo benissimo, è uno dei servizi che utilizziamo, lo dico a chi scrive, come c'è 4040 e 6969, così non facciamo pubblicità a nessuno. L'app di molti di questi numeri non funziona benissimo, questo lo dico visto che lei mi dice, lei non sa nulla. E poi qual è il problema? Io non mica criticavo la carta di credito dell'8585, ho detto che a Roma spessissimo le carte di credito non ci sono. Ho detto che era inaccettabile avere le agitazioni e anche le violenze che ci sono state. Se tu vuoi scioperare un tuo diritto, lo fai nei canoni previsti dalla legge. L'agitazione, la mobilitazione crea il caos, i taxi teoricamente ci sono, ma alcuni non, poi il blocco e le rincorse contro chi voleva lavorare, no? Accusato di essere crumiro, ma qualcuno è andato in centrale in questi giorni a vedere quanto, diciamo, educata fosse la protesta? No, chiedo. No, diciamo che ogni categoria che deve protestare fa la stessa cosa che hanno fatto i tassisti, va bene? Ma non sto, e poi dico, non sto difendendo Uber, sto commentando il tipo di agitazione messa in atto dai tassisti che ogni volta che vengono coinvolti da qualcosa hanno dei metodi, diciamo così. Sì, ecco, è arrivato il genio che dice che io e il direttore Roberto Napolitano abbiamo dei vantaggi nella canessi contro i taxi. E come no? Lei non ha capito che tutto questo, diciamo, approfondimento che facciamo in questi giorni è perché poi quando monto sul taxi voglio lo sconto. Finalmente c'è arrivato, adesso possiamo andare avanti. Magari parlando dell'Enit, la mitica Enit, uno dei più grandi carrozzoni di questo Stato. Avrebbe un compito fondamentale, l'abbiamo già detto qualche giorno fa, promuovere il turismo italiano. Non riesce a fare nulla se non a pagare lo stipendio per i suoi dipendenti, perché su 20 milioni di euro che riceve ogni anno dallo Stato, 18 se ne vanno in stipendi. Riesce a trovare con fatica un milione per la cartellonistica, che però spalma tra Londra, Parigi e Mosca, quindi la vera notizia è quando lo vedi il cartellone dell'Enit, non sapere dov'è. No, ne abbiamo parlato perché ci fu quella bellissima campagna per realizzare con 7 foto raccontare le meraviglie dell'Italia e ci hanno messo un anno e mezzo, hanno pagato, l'investimento previsto era di 5 milioni di euro e quando la diffusione era prevista in 8 paesi, ma non c'è stata. L'Enit poi tra l'altro non ha potuto comprare gli spazi all'estero per mancanza di fondi e ha utilizzato quindi i soldi per pagare il fotografo e come al solito gli stipendi. Ma la cosa bellissima è che altro che Gran Bretagna, Russia, Germania inondati di cartelloni pubblicitari e le radio, le TV di questi paesi battute dalla campagna dell'Enit, non si è visto nulla. Ma tra l'altro il motivo per cui ci hanno messo un anno e mezzo a fare 7 foto, che manca un bradipo, va così lento, è perché a metà del lavoro un consigliere del sottosegretario allo sviluppo economico aveva chiesto il ritiro delle immagini perché compariva in queste 7 immagini, pensa che sfiga che ha avuto Lenin, su 7 ne ha beccata una in cui c'era per sbaglio lui davanti a un trullo, l'immagine era sulla Puglia, solo che era assieme all'ex moglie con cui è in causa, quindi ha chiesto di bloccare quella che era la campagna. Perché ne riparliamo oggi? Perché il ministro Franceschini ha detto Lenin oggi è inadeguata per le esigenze del turismo italiano. Abbiamo previsto un commissario che porterà alla liquidazione di Promuovi Italia e riorganizzerà l'Enit per creare uno strumento di promozione turistica adeguato ed efficiente. Ora io non so se arriverà, me lo auguro, uno strumento di promozione turistica adeguato ed efficiente, ma so che sono molto contento che chiude veramente l'Enit commissariata e anche Promuovi Italia. Poi c'è una cosa importante che riguarda gli albergatori, arriva un credito d'imposta del 30% per le imprese alberghiere che decideranno di investire per rinnovare le loro strutture. Questa è cosa buona e giusta, andrebbe estesa anche a altri settori, perché così poi aumenti la competitività di un paese. E poi ha detto Franceschini che stanno lavorando per un provvedimento di incentivi fiscali veri, non simbolici, per i privati che fanno mecenatismo o aiutano a conservare il patrimonio pubblico, monumentale, storico e artistico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ho detto Schiavone al posto di Iovine, chiaramente oggi abbiamo scoperto che sta parlando e quindi è ufficialmente un pentito, i due numeri uno, se si può così dire, dei casalesi, erano Iovine e Schiavone. Iovine sta parlando e secondo me ne vedremo delle belle, ma intanto non c'entra niente con i casalesi, almeno non che noi sappiamo, ma intanto ci spostiamo a Genova dopo il meteo e la pubblicità, e non per parlare di Beppe Grillo, ma se vogliamo anche di una cosa su cui Grillo ha fatto parte della sua campagna: le banche, la cassa di risparmio di Genova dopo il meteo. Eh sì, ogni tanto la rimettiamo, Save Me. Dunque, cerchiamo di capire come funzionava il meccanismo a delinquere di cui sono accusati, visto che sono arrestati 7 dei vertici della cassa di risparmio di Genova. Una rapidissima risposta ai tassisti. Allora, non ho mai detto che i tassisti siano ricchi. C'è chi mi scrive: lei ha mai conosciuto un tassista ricco? No, non ho mai detto che sia un mestiere che fa arricchire uno, per cui no, la risposta è no. Due, mi scrive un tassista da Bari. Vorrà dire che lei, che parla tanto bene di Uber, non ho mai parlato bene di Uber, non l'ho mai utilizzata, ho anzi detto in tutti i modi, anche con i vostri rappresentanti sindacali, che se c'è una violazione di legge va ricondotta dentro la legge. Ho solo chiesto se l'intera vicenda del servizio taxi si può chiudere dicendo Uber non lavorare o diventa un tassista. Secondo me c'era qualcosa in più da guardare per non farsi superare sempre dalla storia. Comunque scrive: caro Barisoni, anche tu sei uno dei corrotti, non ho capito per cosa, ma i 40.000 tassisti verranno a mangiare a casa tua. Io cucino, però per 40.000 è un po' dura. Con tutti i debiti da pagare, va bene. Il POS è obbligatorio dal 30/6/2014. Allora, guardi, proprio per essere corretti, il POS sarà obbligatorio, quindi la carta di credito e banca, dal 30/6/2014, che mi conferma quello che ho non avuto la sensazione, come scrive qualcuno, ma ho verificato decine di volte con i miei occhi, che in molti taxi, poi dipende, a Milano meno, a Roma di più, a Napoli di più, a Bari di più, il POS o non funziona o non c'è o non si sa cos'è, ok? E poi scusa, io non uso Uber, uso i taxi, ma potrò come cliente leggere gli sms di altri clienti, di chi il taxi lo usa veramente, non sta a tavola, a tavolino o sul salotto, a dire come saranno i taxi italiani? Ne prendo per lavoro tanti, troppi, non lo so, forse troppi. Fabio Pavesi. Allora, buonasera. Come hanno fatto i 7 mitici, per modo di dire, vertici della cassa di Genova? Non tutti sono della cassa, perché Giovanni Berneschi era presidente della cassa di Genova. Ex presidente Ferdinando Giovanni Menconi è l'ex amministratore delegato di Carige Vita Nuova. Ernesto Cavallini è un imprenditore, invece Davide Enderlin è un avvocato. Sandro Maria Calloni è un imprenditore. Andrea Vallebuona è un commercialista di Genova. Francesca Misano è la nuora di Berneschi. Allora, come hanno fatto a mettere in piedi, secondo l'accusa, un giro che ha portato al loro arresto, in alcuni casi domiciliari, altri in carcere, con l'accusa di associazione a delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e intestazione fittizia di beni e il sequestro di 22 milioni di euro in Svizzera? Sì, per cambiare argomento, qui parliamo di gente diventata ricca in modo veramente truffaldino, pensavo ai tassisti. Il meccanismo, leggendo le carte dei magistrati, è molto semplice. Carige Vita Nuova, compagnia assicurativa, cosa faceva? Ha comprato in un caso nel 2006 due alberghi a Roma. Cosa ha fatto? Li ha pagati il doppio del suo reale valore di mercato. Ovviamente se tu paghi il doppio, Carige Vita Nuova compra una cosa che vale la metà e quindi si scaricherà sugli investitori di Carige Vita Nuova e quindi di Banca Carige. Chi ha comprato a un prezzo maggiorato prende quella cosa. Ecco perché gli indagati sono Berneschi, che guidava la banca, Menconi, che guidava l'assicurazione, e questi presunti intermediari, vedi Cavallini l'extra profitto lo incamerava e poi se lo spartiva, secondo gli atti d'accusa, proprio con Berneschi e Menconi, cioè, che erano i compratori, ma non erano loro, era l'assicurazione che guidavano a comprare, quindi il danno è stato fatto ai danni della banca e quindi degli azionisti della banca, e chi guidava la banca in modo assolutamente illecito, in modo direi impudico, strapagando appunto acquisizioni, si creava la riserva personale, il suo tesoretto che trasmigrava in Svizzera, quindi poi ci sono intermediari che facevano arrivare questi soldi in conti offshore in Svizzera, e a questo punto la truffa è fatta. L'altro episodio riguarda l'acquisto di una società pagata 5,6 milioni, equivaleva pagata 45 volte di più il suo valore nominale. Cioè, allora, una società di che? Una società comprata sempre da Carige Vita Nuova, strapagata 45 volte il suo vero valore. Ovviamente quelle 45 volte in più sono finite probabilmente nelle tasche di questi 7 arrestati. Quindi il meccanismo è di una semplicità disarmante. Stupisce come sempre che su queste cose, quando fai queste transazioni, ti chiedi dov'era il collegio sindacale di Carige Vita Nuova, dov'era l'autorità di vigilanza leggi ex ISVAP. Cioè, queste cose alla fine erano di fatto scritte comunque nella contabilità, perché questa inchiesta nasce da un'ispezione del settembre 2013 di Banca d'Italia, che per 5 mesi ha rivoltato come un calzino la banca, e si è scoperto dopo anni e anni che Berneschi, che per 20 anni ha dominato la banca, era una sorta di padre padrone, aveva messo a bilancio 1 miliardo di crediti dati a persone di cui evidentemente era amico, che erano crediti incagliati, cioè erano sofferenze che lui teneva a bilancio come crediti buoni. Questo ha scavato un buco di 1,7 miliardi nei conti della banca. Cioè, Carige ha chiuso il bilancio l'anno scorso con 1,7 miliardi di perdite. Ecco, no, in tutto questo, infatti, oltre al reato, e che è un reato e resta un reato, c'è il danno perché tu compi un reato del genere su una banca che ha 678 sportelli, 5,900 dipendenti. È la Cassa di risparmio di Genova Imperia, cioè non è che proprio sia, anche se fosse, è la settima banca italiana. È la settima banca italiana. E capitalizza 1 miliardo, però ne ha perso 1,7 miliardi l'anno scorso, ok? Sì. Anche a causa di forte svalutazione su crediti dubbi, e te credo, se i soldi li prestavi così in parte, esattamente, è difficile che ti tornino indietro. E avviamento. La fondazione di Cassa di risparmio di Genova ha meno del 30%, ha venduto lo scorso mercoledì, lo ricorderete, il titolo ieri ha perso moltissimo. Una quota dell'11% a 40 centesimi di euro per azione, incassando 95 milioni. Però il problema è che a fine 2012 Banca d'Italia chiede alla Cassa di risparmio di Genova un aumento di capitale da 800 milioni, che è in programma adesso a giugno, per rafforzare i coefficienti patrimoniali. E tra l'altro la stessa Banca d'Italia dice: attenzione, avete troppi crediti che mantenete in bilancio come in bonus. Cosa vuol dire? Vuol dire che continuate a scrivere che queste persone vi ridaranno i soldi quando è quantomeno dubbio che lo possano fare. Quindi non me lo puoi mettere tutti quanti in bonus, troppo comodo, no? Certo. Cioè, voglio dire, se devo 1 milione, dov'era la notizia di oggi, era bellissima, me la sono persa, però se devo 1 milione di se mi deve 1 milione di euro uno che è morto, è difficile che me li dia. Non lo dico perché la ASL non c'entra nulla, ma la ASL 1 di Torino ha scritto a pazienti, ha scritto a persone decedute, morte, chiedendo, mandando, l'attendiamo per la visita di controllo per l'assistenza domiciliare programmata. Peccato che fossero morti, ma ne parliamo domani, non c'entra nulla con Cassa di risparmio di Genova. Secondo aspetto, e vorrei capire bene, rispetto a questa banda, Berneschi, Menconi, così, Micalizzi è un genio. Sì, è vero. Nel senso che quello almeno ha fregato Nomura, JP Morgan, da un parcheggio per roulotte nel Nevada, piazzando 1 miliardo di bond, strumenti complicatissimi, con G, cioè quello era uno che l'aveva studiata bene la cosa. Questi hanno fatto una cosa da rurali, senza offesa per chi lavora in agricoltura, cioè da bovari, senza offesa per chi lavora con i bovini, hanno fatto comprare al doppio del valore immobili alla banca, e poi quello che lo vendeva l'immobile gli dava il 50%. Esattamente così, esattamente così. E ovviamente queste persone che per 20 anni, Berneschi è stato alla guida di Carige per 20 anni, ha cramato, e non si è accorto di niente nessuno. E nessuno si è accorto di niente. Adesso ti trovi una banca distrutta che deve fare 800 milioni di aumento di capitale per sopravvivere, con una fondazione che ha in carico le azioni Carige tuttora, le sta vendendo male perché le vende a un prezzo basso, a 1,35 euro, il titolo vale 40 centesimi, cioè la fondazione scenderà di quota, ma si ritroverà un bilancio 2013 con un buco di bilancio spaventoso, e la fondazione pagherà questo prezzo, pagherà il prezzo di aver mai controllato, era l'azionista di controllo col 49%, come e Siena. Qua sento odore di Siena, sto come dicendo, Siena, sento esattamente, di Siena, le due storie sono esattamente sovrapponibili. Dov'era la fondazione? La fondazione per anni ha lasciato manovrare Berneschi in modo del tutto indisturbato, Banco oggi si trova con in carico i titoli a 1,35 euro e valgono in borsa 40 centesimi. Li venderà? Perfetto. Allora, scrivono ascoltatore, adesso andiamo sul traffico. Un ascoltatore, lo farei anch'io qualche anno di galera se avessi qualche decina di milioni di euro poi in Svizzera da ritirare. Ha ragione. Qui il problema, ma lo diciamo, non è solo la galera che devi farti se vieni riconosciuto colpevole, è il danno patrimoniale che hai causato alla banca che deve fare l'aumento di capitale. Quindi non basta, occorre il sequestro dei beni e forse anche qualcos'altro, perché sennò è troppo comodo, ti spari 2 anni di galera, poi vai in Svizzera per il resto della tua vita. Con la disoccupazione che abbiamo, se faccio un appello, dico: volete fare 2 anni di galera e poi passare in Svizzera 10 anni con 20 milioni? Vogliamo vedere quanti. La coda arriva, già alzano le mani in regia e sono pure assunti, figurati fuori. Traffico. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Ovviamente abbiamo creato il caos perché stanno iniziando a scrivere: quando è che posso iniziare a fare 2 anni di prigione per fare anch'io? Poi vorrei un invito anche alla Banca d'Italia. Adesso parliamo un secondo della Banca d'Italia e anche dell'ABI. L'ABI ha sfiga, prima che a sfiga, perché se becca un presidente come Musseri, che poi scopriamo essere, secondo l'accusa, oltre che aver distrutto il valore di una banca, essere anche a capo, e poi adesso il vicepresidente pure lì, capito, è una roba, certo, attenzione. È difficile dirlo prima, ci mancherebbe, nessuno ha la sfera di cristallo. Magari, insomma, non mettete ai vertici qualcuno che ha banche che sono in difficoltà nei bilanci. Almeno quello, visto che difficoltà nel bilancio, la Carige ce l'aveva, ma mettete solo quelli che hanno i bilanci eccelsi. Detto questo, dov'era la Banca d'Italia in questi anni? Perché è vero che l'indagine prende il via dalla relazione della Banca d'Italia depositata in procura nel settembre 2013, ma i buoi erano belli che scappati in Svizzera, prego. C'è un fatto veramente inquietante, cioè Carige era l'unica banca italiana che negli anni della crisi, dal 2008 in poi, faceva 200 milioni di utili netti l'anno. Uno guardava il bilancio di Carige e diceva: ma questi sono bravissimi, tutti perdono, Carige fa gli utili. Ma perché? Perché evidentemente non svalutavano a sufficienza i crediti. Anche questo era scritto, perché Carige diceva che rettificava del 20% i crediti anomali, quando la media delle banche italiane rettificavano il 50%, cioè svalutavano il 50%. Ovvio che se tu svaluti meno, tu fai l'utile, l'altro fa la perdita, quindi tu apparentemente sei migliore, ma in realtà sei migliore con un trucco. E anche lì, dove era Banca d'Italia quando uscivano questi bilanci? Perché ce ne siamo accorti noi del sole, semplicemente sfogliando i bilanci vecchi di Banca Carige, che lì c'era un'anomalia, perché il sistema perdeva e Carige guadagnava. Quindi Berneschi faceva anche lusto di essere un grande banchiere. Questo è il paradosso dei paradossi. E questo è il problema relativo proprio alla al mancati controlli, o meglio mancata intensificazione dei controlli. Detto ciò, allora, a parte che qua c'è gente che mi scrive: sto preparando il pigiama. Vabbè, era una battuta, chiaramente ha ragione chi dice: si vede che lei non è mai stato in galera, e faccio gesti scaramantici, spero di non andarci mai, ma nessuno ha detto che la galera sia una cosa leggera, ma ci mancherebbe, massimo rispetto anzi, insomma, per chi. Il problema è capire come, diciamo, che cosa capiterà a queste persone se fosse dimostrato che sono colpevoli, perché ripeto, non c'è solo una malversazione in senso stretto, c'è un danno al risparmio dei genovesi, dei liguri, un danno alla gestione della banca, un danno anche in quella che è la capitalizzazione della banca, perché l'aumento di capitale arriva anche per questo motivo. Non è semplicemente hai truffato la banca, chi se ne frega, no, hai truffato i risparmiatori di questa banca. Tra l'altro li hai truffati non dall'esterno come Michalizzi, ma dall'interno, perché Michalizzi adesso si beccherà i suoi anni, però almeno Nomura l'ha fregata da fuori e ha rubato in casa da ieri che voglio questa frase, che mi becco l'acquarella, no, nel senso che Nomura è sotto accusa per aver venduto i prodotti strutturati, Alexandre Santorini al Monte dei Paschi. Ecco, sei riuscito a fregare chi era bravissimo nel proporre prodotti molto complicati. Qui veramente è peggio, perché questi hanno fregato Carige essendone il presidente, esatto, e direttore della parte VIP. Esatto, hanno tradito i loro azionisti e i loro investitori. In confronto Michalizzi è un chirichetto. È la punta dell'iceberg? Ma può essere, perché se solo con 2 operazioni hanno accertato che sono stati distratti 21 milioni di euro e la banca aveva a bilancio 1 miliardo di crediti incagliati tenuti in vita artificialmente, mi aspetto che forse Berneschi magari racconterà altri episodi se sarà messo sotto pressione. In ogni caso, ovviamente, come dire, i magistrati della Guardia di Finanza hanno preso le evidenze più piene. Io mi aspetto altre sorprese. E adesso, visto che parlavamo di Carige, andiamo a vedere anche cosa ha fatto il titolo in borsa e cosa hanno fatto anche complessivamente la borsa. Grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Buonasera. Partiamo proprio da lì, partiamo dalla Cassa dei risparmi di Genova e poi andiamo anche su altri titoli, su Unipolsai, di cui parleremo più avanti, perché c'è anche l'avviso di garanzia consorte oggi. E buonanotte. Vedi che poi è troppi anni che conduco questo programma, consorte era un'altra vicenda. No, dico, c'è anche tutta la vicenda Unipolsai e l'operazione attraverso cui si è arrivati a Unipolsai l'avviso di garanzia a Carlo Cimbri, che è l'amministratore delegato di Unipolsai. Sì, lo so, il lapsus è freudiano. Però la borsa, citavo i due titoli perché hanno avuto andamenti diametralmente opposti. Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Cassa del risparmio di Genova e Unipolsai. Sì, come dicevi tu, andamenti opposti. Per Carige siamo a più 1,2%, mentre Unipolsai ha segnato una delle performance peggiori, la peggiore del listino principale, con un calo del 3,8%. Ovviamente differenti sono le vicende finanziarie, le vicende giudiziarie e opposti sono gli andamenti dei titoli. Mm-hmm. Come mai? Allora, su Unipo è comprensibile, meno viene messa in discussione l'intera operazione che ha portato alla fusione tra, esatto, Unipol e il gruppo SAI, ex di Ligresti, meno 7,33%. Ma Cassa dei risparmi di Genova? Beh, si tratta di indagini che riguardano, diciamo, la gestione precedente, quindi tutto sommato, come dire, quello che c'è adesso è diverso, il titolo non ne risente più. Gli altri titoli e il resto della borsa dopo il GR24, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, continuiamo con la borsa, poi la vicenda Unipol e poi l'Istat che, rispettando le direttive di Eurostat, quindi europee, inserisce nel calcolo del PIL anche altre voci, tra cui il consumo di sostanze stupefacenti e anche il contrabbando e la prostituzione. Chiara Di Cristoforo, continuiamo invece bene Mediaset oggi in borsa e qui si fanno insistenti le voci di una cessione di Mediaset Premium. Il titolo ha guadagnato il 2,60%. Sì, infatti ha chiuso comunque sotto i minimi di seduta, un po' come tutto il mercato, ma ha iniziato a correre sin dalle prime battute di stamattina. Come ricordavi tu, si ritorna a parlare della cessione di Mediaset Premium, ma sembra più vicina di quanto ci si aspettasse. Secondo un articolo del Sole di questa mattina è già partita la due diligence sulla PTV, cioè ci sono già Al Jazeera e Vivendi che stanno guardando i conti. Gli analisti hanno cominciato a fare un po' di ipotesi, si parla di un valore di 1,1 miliardi di euro secondo il Credit Suisse. Tra l'altro i conti di questa PTV dovrebbero vedere il pareggio di bilancio già quest'anno e dal 2017, dopo che saranno spesati gli investimenti, dovrebbe vantare un utile di 55 milioni di euro, ancora in crescita poi nell'anno successivo, quindi insomma si tratta di un asset molto redditizio. Per ora si guarda la cassa, poi si faranno le valutazioni su quello che Mediaset dà via. Allora, per il resto, Unipolsai diciamo meno 3,80%, sì. Finmeccanica meno 3,5%, oggi deboli le banche, nel senso che lo spread è rimasto a 185 punti, per cui 180-185, però La Pop Emilia Romagna perde il 3,20, Monte dei Paschi 2,60, Banco Popolare meno 2,20, Azimut meno 2, Ubibanca meno 1,70%, Intesa meno 1,40%. Poi c'è Saipem che perde il 2,90, Mediobanca il 2,80 abbiamo detto, Tods perde il 2,20, Exor il 2,20 e Iux il 2,13%. Visto che citavo Exor, vorrei beccare anche Fiat che ha perso l'1,55%. Perché lo dico? Perché oggi ha parlato il presidente di Exor, John Elkann, rispondendo agli azionisti. Ha detto che l'aumento di capitale non è necessario, però la disponibilità di Exor esiste e resta a fornire nuove risorse, che il piano Fiat Chrysler non è un piano velleitario, arrivare a 7 milioni di auto nel 2018 è credibile e non c'è bisogno di un partner per realizzarlo, vorremmo dare un fratellino a FCA e CNH, quindi Case New Holland, uno o due grandi investimenti, il gruppo è un gruppo che opera nei servizi sia che opera nei servizi che in ambito industriale, una società con radici in Europa o in America che opera in tutto il mondo, e poi la componente italiana si svilupperà, non è escluso un aumento a domanda, sostanzialmente se l'Exor vuole aumentare la quota nell'Economist di cui oggi detiene il 5%, ha detto non è escluso un aumento della nostra quota in Economist, i titoli li abbiamo già ricordati, vorrei andare avanti però su PRL, titolo più sottile ma che oggi ha conosciuto una giornata più che positiva. Sì, ha chiuso con un rialzo del 17%, il rialzo maggiore del listino. Stamattina hanno fatto questo comunicato, hanno diffuso questo comunicato in cui hanno detto che gli ordinativi di aprile per Orablock, che è un prodotto della società, è un anestetico locale per uso odontoiatrico, questo prodotto in Nord America gli ordini hanno rappresentato un record assoluto per la società e hanno registrato un più 17% rispetto al mese prima, hanno superato le 10 milioni di fiale, di fatto si tratta di un prodotto di punta del gruppo che sta in quest'ultimo periodo puntando pesantemente sugli Stati Uniti, e questo sicuramente è una notizia che fa molto bene perché insomma sembra che abbiano preso la direzione giusta, poi chiaramente è un titolo sottile, quindi un meno 17% riflette anche questo. Un più 17%. Più 17%. EMS più 12%, Self Therapeutics più 10%, Wallspace più 9,30%, Vianini Lavori più 9,30%, Caltagirone più 7,80%. Fronte opposto, Soft Strategy meno 8%, RCS oggi non va bene, sia sul risparmio che sulle ordinarie, Unipol l'abbiamo detta, e poi Cucinelli meno 5,70%, grazie a Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere Sole 24 Ore, e noi adesso trattiamo l'altro tema di cronaca giudiziaria, ma che riguarda l'economia, in questo caso la finanza di nuovo, e quindi la vicenda Unipol SAI, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Hanno ragione i bancari, i dipendenti di banche che stanno scrivendo, sono un bancario, lavoro in una filiale, ne leggo una a caso, abbiamo decine di controlli e ispezioni, ti rompono le scatole perché manca una firma oppure perché manca il sigillo sul contratto, ma i controlli ad alti livelli non li fanno mai. E molti aggiungono, dove erano i revisori contabili? Vicenda Cassa del Risparmio di Genova, oltre che Monte dei Paschi, dov'era l'audit interno, dov'era il collegio sindacale? Me lo chiedo anch'io, dove erano? Sta a vedere che qua meccanismo di Parmalat in cui saltarono tutti i livelli di controllo, ne contammo a suo tempo 7 dei livelli di controllo che non controllarono, non dico con colpa, ma quantomeno voglio dire, cioè, non avete controllato, probabilmente errare è umano, però non diciamo che tutto va bene così, madama la marchesa, perché sennò è possibile che una banca, i vertici di una banca organizzi una truffa così, diciamo, l'abbiamo definita così grossier, così grossolana, così rurale, fai comprare immobili alla banca che valgono il doppio del valore reale, ti spartisci con chi li vende e la differenza, il bottino, insomma, e nessuno se ne accorge. Boh. Ed è anche vero che poi ci sono centinaia di controlli di altro genere, ma insomma che non arrivano mai a quei vertici. Unipol SAI, perquisizione della Guardia di Finanza questa mattina a Bologna, nella sede di Unipol SAI, indagato l'amministratore delegato Carlo Cimbri per aggiotaggio. indagati per lo stesso reato anche altri manager. Allora, la magistratura ipotizza presunti illeciti nell'operazione di fusione tra Unipol Assicurazione, Premafin Finanziaria, Milano Assicurazione Fondiaria S.p.A. che ha dato via Unipol SAI. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, per essere molto precisi, aggiotaggio una cosa, è un tipico reato finanziario con l'insider trading e l'utilizzo di informazioni riservate, però nulla c'entra con la gravità dei reati imputati alla Cassa del Premio di Genova, perché so che sennò il cortocircuito può essere dietro l'angolo. Qual è l'ipotesi su cui è intervenuta la Guardia di Finanza e su cui indagano i magistrati della Procura di Milano? L'ipotesi, come dicevi tu, era quella di aggiottaggio e ruota sostanzialmente attorno alla definizione dei rapporti di concambio che hanno portato all'integrazione a 4. In particolare c'è da dire che il PM Luigi Orsi si era già occupato di questo aspetto a giugno 2012. Lo fece perché un'analisi firmata dal revisore dei conti di Fondiaria SAI, Ernst & Young, portò alla luce alcune differenze che possiamo definire abissali rispetto a quelle che era la valutazione di una particolare partita di bilancio, ossia gli investimenti strutturati di Unipol Assicurazioni. All'epoca sostanzialmente dovevano essere definiti con cambi per la maxi integrazione e c'erano punti di vista completamente differenti tra gli advisor di Fondiaria SAI e tra gli advisor di Unipol Assicurazioni rispetto a come questa posta doveva essere iscritta a bilancio. Ernst & Young concludeva sostanzialmente che questa discrasia aveva un elemento quantomeno che non tornava e che doveva essere approfondita. Orsi se ne occupò, ne chiese conto a Consob e Consob sostanzialmente attivò un'indagine proprio sul tema strutturati. Unipol Assicurazioni all'epoca aveva più o meno 6,4 miliardi di euro investiti in strumenti strutturati, che erano circa il 42% del suo portafoglio, un numero abbastanza rotondo. Da lì si è aperta sostanzialmente un dibattito su come questa posta doveva essere iscritta a bilancio. Non solo, l'altro tema era quello invece delle riserve di Fondiaria SAI, altro elemento che evidentemente invece doveva servire a confermare quelli che erano stati i concambi già stabiliti. Successivamente sostanzialmente si aprì un dibattito sempre tra Unipol e tra Fondiaria SAI su se fosse o meno necessario rivedere la riservazione della compagnia milanese. Unipol era convinta che la società fosse sotto riservata e quindi svalutò abbondantemente anche nel bilancio 2012. Fondiaria SAI evidentemente riteneva che questo non doveva essere fatto, tant'è che in numerose intercettazioni disposte dalla Procura di Torino ed eseguite dalla Guardia di Finanza di Torino emergono alcune dichiarazioni dell'allora direttore generale Pier Giorgio Peluso, nel quale dice sostanzialmente che Unipol stava forzando la mano sulla riservazione di Fondiaria SAI proprio per mantenere inalterati i concambi. Probabilmente la Procura di Milano è andata sostanzialmente ad approfondire questi due aspetti, ossia il tema della riservazione e il tema degli strutturati, per capire sostanzialmente se siano stati i concambi, siano stati definiti o meno in maniera corretta. Sì, perché alla fine di tutto, sia la riservazione che gli strutturati portano a dire che i concambi, cos'è il concambio? Quando tu fai una fusione decidi quante, esatto, per un'azione del gruppo X, quante azioni vengono del gruppo Y che si sta fondendo. Esattamente, e stabilisce il rapporto di forza e anche di valore, appunto, no? Tra uno, cioè tu hai un'azione mia, in cambio ne hai tre dell'altro, quando ti fondi. Ecco, è ovvio che è un elemento delicatissimo, perché attraverso il concambio, per esempio, fu molto criticata l'operazione Alitalia Air One, perché si disse Air One venne valutata quanto Alitalia per fare un favore alle banche creditrici, mentre valeva meno. Faccio un esempio che ricordiamo tutti. In questo caso i concambi tra le società sarebbero stati, secondo l'accusa, valutati in modo erroneo e artificioso, per, non per un errore, anche qui così, umano, ma per far derivare significative alterazioni dei prezzi delle azioni e riflessi sul peso degli azionisti nella nuova società Unipol SAI. Grazie, e vorrei chiudere qua la pagina giudiziaria oggi. Grazie a Laura Galvagni del Sole 24 Ore, il traffico, e poi cerchiamo di capire dall'Istat stesso Come mai lo sappiamo, lo chiede l'Europa, ma insomma che cosa potrebbe comportare per il PIL del nostro paese inserire da quest'anno nella contabilità nazionale anche, oltre alle spese per ricerca e sviluppo che diventano investimenti e non più costi, anche il contrabbando delle sigarette, la droga e la prostituzione. Quest'anno tutti i paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, inseriranno una stima nei conti e quindi nel PIL delle attività illegali come traffico di sostanze stupefacenti, servizi della prostituzione e contrabbando di sigarette e alcol. Al di là della battuta, così abbiamo risolto il problema del PIL, della crescita, del deficit, del rapporto deficit-PIL, immagino la corsa nei vari paesi a inserire il valore della prostituzione, laddove è legale è più facile, ma anche insomma è già inserita, ma delle attività illegali, traffico di sostanze stupefacenti, no, c'ho più io, più traffico di cocaina io, ma io ho più il traffico di hashish, ma insomma, è un po' strana sta stima, anche perché quando un'attività è illegale è, per definizione è in nero ed è difficile quantificarla. Però, siccome la direttiva europea, chiedo al direttore centrale del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche dell'Istat, dottor Giampaolo Onedo, buonasera. Buonasera, salve. Come stimerete, diciamo, il tasso di giro d'affari della prostituzione? Cioè, andate su quelle che sono le stime del Ministero degli Interni, chiedo. Allora, intanto mi lasci un attimo dire una cosa, questa non è proprio l'unica novità. No, no, ce ne sono di più importanti. Non è neanche la più grande, tutti i paesi europei stanno revisionando, rifacendo i loro conti nazionali. C'è questa componente, in qualche maniera era... Lei lo sa però che domani i titoli saranno su questo, questo lo sapete anche voi, nel senso che è vero che ci sono cose più importanti... Lo immaginavamo, però insomma noi cerchiamo di tenere dentro tutto, di tenere conto di tutto. Da alcuni anni in realtà, già dal precedente standard europeo, c'era la raccomandazione di inserire le attività illegali nella stima del PIL. Quasi nessun paese l'ha fatto, anche perché non c'erano metodi e così un po' regole comuni, già sul definire quali sono le attività da inserire, adesso sono state definite, sono le tre che lei ha citato, solo quelle, non altre. Naturalmente stimarle è molto difficile, perché essendo illegali sono per definizione nascoste, non si dichiarano, non c'è modo di avere informazioni dirette. Questo bisogna dire è vero anche per il sommerso, in senso, certo, in tanti altri sensi, che l'Istat, con una pratica che viene considerata una best practice internazionale, ha inserito oramai da anni, e tutti i paesi, come dire, seguono questo approccio di inserire. Senta, ma è vero che l'Italia potrebbe avere anche, grazie a questo, ma non c'è solo questo, le ricordava giustamente, per esempio le nuove regole di contabilità, le spese per ricerca e sviluppo saranno considerate investimenti, non più costi, che è un impatto positivo questo. Sì, quello è la componente più importante. Ma ci mancherebbe. Però, insomma, è vero che si stima che il livello del PIL italiano possa avere un aumento tra l'1 e il 2%? Allora, questa stima fra l'1 e il 2% è una stima che in realtà ha già circolato, perché arriva da Bruxelles. La diffusa Eurostat che ha chiesto a tutti i paesi, però è una stima anche piuttosto vecchia, che era di larghissima massima e che non considerava tutte le componenti. Adesso ci stiamo lavorando molto intensamente e ci vorrà ancora un po' di tempo. Cioè, lei mi sta dicendo che potremmo superare la Germania? Ma dico... No, assolutamente no. Ma sarebbe incredibile fare chiudere un PIL quest'anno in rialzo forte grazie a questo nuovo criterio di contabilità. No. Allora, il rialzo è del livello, questo è molto importante, perché sennò anche per non un punto percentuale di PIL. Oddio, guardi che magari 17 miliardi, che è più o meno un punto percentuale di PIL, magari purtroppo nel caso di stupefacenti, ho un giudizio assolutamente neutro nell'altro, ma insomma magari prostituzione, stupefacenti e contrabbando li fanno, eh. No. Sì, ma i primi dati che si sono visti per altri paesi, che sono pubblici, ma non tanto per questa componente, ma perché in generale è una revisione del PIL, è un momento in cui si rifanno tantissimi conti e quindi si può arrivare a un livello del PIL abbastanza diverso. E i numeri che lei ha detto sono numeri che insomma un po' tutti i paesi pensano di ottenere, di poter avere. Dopodiché se tutti più o meno hanno un rialzo, naturalmente le posizioni relative non cambiano, e comunque stiamo parlando strettamente del livello. Ciò non ha nessun impatto, o minimo o di tutt'altro genere, sulla dinamica, che è quella di cui sempre parliamo. Cioè, se il PIL aumenta o no, quasi nessuno sa che cos'è il livello del PIL, come quasi nessuno sa il numero del PIL, perché non è poi tanto rilevante sapere il livello, eccetto. Allora, l'anno scorso il nostro PIL valeva 1.560 miliardi di euro. Per cui lei dice è il livello del PIL che aumenta, ma quello che poi noi andiamo a guardare anno per anno è quanto cresce, è la percentuale di crescita, cioè se il PIL cresce o non cresce. Quindi lei dice, però quest'anno da un punto di vista statistico faremo un balzo in su, perché magari da 1560... No, ma questo balzo in su poi lo ricostruiamo all'indietro, e quindi non sarà più un balzo, allora non c'è nessun beneficio. Cambiano i livelli. Cambiano i livelli e non le dinamiche. Poi le dinamiche possono anche un pochino essere riviste, ma non è neppure detto che lo siano al rialzo, piuttosto che speravo in una cosa, in un impatto positivo che ci permettesse di superare anche la Germania. Grazie al direttore. Il chiarimento è molto importante, va a fotografare il livello, non l'incremento, e quindi poi si spama sugli anni. Ottieni poco, cioè avrai un PIL più alto come numero, ma quello che interessa è che l'aumento percentuale o il calo percentuale del PIL, per capire se sei in espansione o recessione, non cambierà. A questo punto ci si potrebbe chiedere anche se non abbia senso tassare, legalizzando alcune di queste attività, ma questo è un tema che non affrontiamo certo oggi. Grazie appunto al direttore centrale dell'Istat, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.